Giovedì 19 aprile, dalle 18.30 in poi, l'aria è più pesante che mai quando un fantasma ci ruba l'ossigeno. Parliamo della questione amianto al parco sociale dell'ex officina delle ferrovie della Calabria a Cosenza con Giuseppe Infusino, Beniamino Falvo, dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Laura Corradi, docente Unical, Claudio Dione Salvi, giornalista. L'iniziativa è curata dalla rete difesa del territorio Franco Nistico e verrà trasmessa da Radio Transizione di Fase. Sostieni la RDT. Sostieni TDF.